De tanti anni ormai che son lontan de ti, vece a Trieste mia. Son resta solo e gavevo voglia de compagnia. Allora Trevisan me ga manda un bel can nato in un'osteria. Però quel fiol di un can, quel fiol di un can, egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comanda una cartolina de protesta. Allora il mulo Trevisan me ga risposto, e il me ga spiega perché. Solo davanti a un fiasco di vin, quel fiol di un can fa le feste, perché il si un can de Trieste, perché il si un can de Trieste, davanti a un fiasco di vin, quel fiol di un can fa le feste, perché il si un can de Trieste, e che piace il vin. Da qualche mese in qua, a Bevergo impara come un fachin del porto, e in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... Pardon, che hai fasi pur dindon, se morirò contento, perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è così beato, adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più de vin, e so che me vol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia, e mi me basta un anno desta bella vita, e poi sarà quel che sarà. Solo davanti a un fiasco di vin, quel fiol di un can fa le feste, perché si un can de Trieste, perché si un can de Trieste, davanti a un fiasco di vin, quel fiol di un can fa le feste, perché si un can de Trieste, e che piace il vin. Perché il sei un can de Trieste, e che piace il vin, sì, e che piace il vin, sì, e che piace il vin, sì, viva!